Chiesa Cristiano Cena del Signore, tre parole da precisare. Non vi è dubbio che stiamo vivendo in un momento di confusione spirituale. Si stanno freneticamente intensificando gli incontri tra fedi diverse e le varie confessioni religiose di fede cristiana, per un confronto. Sembra che il terzo millennio sia considerato un numero magico e che, a tutti i costi, si voglia arrivare ad una sola fede. Nell'incontrarsi per conoscersi, ovviamente, vi è del buono, perché molta incomprensione e confusione nascono proprio dall'ignoranza. Personalmente, però, denuncio, in questo, un errore di fondo, di partenza. Ogni disciplina ha il suo linguaggio. E, quindi, anche nel campo religioso, vi sono parole di uso comune. Vi sono tre termini che vengono usati di frequente, i quali, a mio avviso, sono ragione di confusione più che di chiarificazione. Perché ogni confessione di fede si fonda su presupposti diversi. È chiaro, quindi, che si possa usare lo stesso linguaggio senza comprendersi. Per questo non basta la buona volontà per abbattere gli steccati che dividono confessioni di fede diverse, ma bisogna chiarire il significato di quelle parole che sono maggiormente usate. Sono tre, a mio avviso, i termini che usiamo più di frequente. Conscio di non dire nulla di nuovo, voglio isolarli dal loro contesto per studiarne il vero significato. I termini sono Chiesa, Cristiano e Cena del Signore. Attenzione quindi a queste parole d'uso comune per non arrivare inavvertitamente a sconfessare quello che invece sarebbe nostra intenzione professare. La parola Chiesa. Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto. Nel Signore, 1 Corinzi 16 e 19, i credenti che ci hanno preceduto hanno avuto da subito idee contrapposte dalla loro origine sulla definizione della parola chiesa. Se si ripercorrono i due millenni di storia ormai trascorsi, si trova che le divisioni non siano avvenute per una diversa concezione di Dio, di Cristo, né dello Spirito. I problemi che hanno lasciato un segno più profondo e una scia di divisioni sono quelli determinati dalla dottrina della Chiesa. Definire quindi la parola Chiesa è più che mai indispensabile. La parola Chiesa, dal greco, significa chiamati fuori. Essa si riferisce, in modo indiscutibile, a delle persone. Se così non fosse, Paolo non avrebbe salutato Aquila e Prisca con la chiesa che si riuniva in casa loro. Eppure, molti figli di Dio continuano a fare affermazioni quali andiamo in chiesa, ci sposiamo in chiesa, la chiesa era piena, ci troviamo in chiesa. Così, si pensa che in chiesa si vada e dalla chiesa si esca, nutrendo in tal modo la comune convinzione che la chiesa sia qualcosa anziché qualcuno. Come se ciò non bastasse, alcuni locali di culto hanno l'insegna Chiesa Cristiana. Il 18 settembre 1999 a Napoli si è inaugurato un locale di culto di 1200 metri quadrati e su di un periodico, che ne pubblica la foto, si legge a caratteri cubitali Chiesa Cristiana Evangelica. Da un certo punto di vista potrebbe anche andar bene una scritta del genere. Se non fosse che il cattolicesimo usi la parola chiesa per definire il locale dove i fedeli si radunano. E così le persone comprendono che un cattolico che abiura la sua fede diventando evangelico sia esclusivamente passato dalla chiesa cattolica alla chiesa evangelica, abbia cioè effettuato solo un cambiamento di locale di culto. Proprio per questa ragione mi trovo costretto ad affrontare questo tema, perché quest'ultimo aspetto è ancora più serio. L'affermazione «la Chiesa Cattolica Romana» è talmente sulla bocca di tutti da aver ormai infuso nella mentalità comune un'ignoranza quasi congenita riguardo al reale significato del termine «chiesa». Nessuno, infatti, fa più caso all'assurdità di tale proposizione. Il cattolicesimo è, di fatto, solo una religione e non una chiesa, nel senso scritturale. Il mio appello è teso ad invitare ogni figlio di Dio ad affermare la religione cattolica romana, volendola indicare anziché la Chiesa Cattolica Romana. non tanto per andare controcorrente, anche se il comportamento del cristiano a volte è tale, ma perché, in tal modo, egli testimonia di aver le idee chiare sulla differenza che intercorre tra una chiesa ed una religione. Affermando che la religione cattolica romana sia una chiesa, confondiamo le idee, tanto le nostre, quanto quelle di chi ci ascolta. Una dimostrazione è che, quando ho spiegato ad alcuni figli di Dio perché la religione cattolica romana non sia una chiesa, essi sono rimasti interdetti. Quale presa può avere nella nostra mente una parola sbagliata? Non voglio sostenere che nel cattolicesimo non ci siano dei cristiani, ma, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, al paragrafo 782, leggiamo: si diviene membri di questo popolo. Chiesa, non per la nascita, ma per la nascita dall'alto, dall'acqua e dallo Spirito, cioè mediante la fede in Cristo e il battesimo. Quindi, secondo il cattolicesimo, si diventa partecipi della religione cattolica romana tramite un atto di fede e il battesimo ricevuto da neonati. Proprio per questo principio, la religione cattolica romana si attribuisce il termine di chiesa, perché, con tale affermazione, sottintende che tutti coloro che le appartengono sono diventati figli di Dio mediante il battesimo. Mediante il battesimo, perché un neonato non è in grado di credere in Gesù Cristo. È evidente che se le cose stessero così, essa sarebbe veramente una chiesa. Ma, poiché si diventa figli di Dio mediante la fede risposta nella persona e nell'opera di Cristo, affermare che il cattolicesimo sia una chiesa significa avallare un errore teologico devastante. All'uomo della strada non costa niente affermare che il cattolicesimo romano sia una chiesa, ma un figlio di Dio che conosce il valore delle parole è responsabile di quello che semina con il suo parlare, dimostrando una grande superficialità ed una scarsa conoscenza dell'ecclesiologia biblica. Le parole trasmettono convinzioni. Dalla scrittura comprendiamo che la Chiesa, cioè tutti coloro che sono nati di nuovo, è sempre stata locale, cioè circoscritta ad un luogo. Leggiamo che Paolo ha scritto alla Chiesa di Dio che è in Corinto, in Efeso, in Filippi. I cristiani abitavano in, non erano di una religione. Quando egli indirizzava ai credenti di una regione, la sua lettera, questa, era diretta alle chiese della Galazia. Mai alla chiesa della Galazia, o alle chiese dell'Asia, e mai alla chiesa dell'Asia. Solo Dio conosce la chiesa universale, e noi non abbiamo il diritto di definire chiesa nessun movimento religioso, sia cattolico, protestante oppure ortodosso. La parola cristiano. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio, portando questo nome, 1 Pietro 4. La comprensione della parola cristiano è molto legata al termine chiesa, perché se abbiamo capito cos è una chiesa, è evidente che abbiamo le idee chiare anche in relazione alla definizione di un cristiano. Nel nostro linguaggio quotidiano affermiamo il libro cristiano, un canto cristiano, una riunione cristiana, un complesso cristiano, una dottrina cristiana. Dalla scrittura sappiamo che il termine cristiano venne attribuito per la prima volta in Antiochia ai discepoli di Gesù, a coloro cioè che avevano accettato gli insegnamenti degli apostoli. La parola in questo caso ha valore di sostantivo, mentre negli esempi citati è espressa come aggettivo. La cosa non mi disturberebbe più di tanto se non che, a mio avviso, oggi vi sia confusione tra i credenti nel discernere chi sia veramente un cristiano. Con questo non voglio dire che sia compito dei credenti giudicare chi sia cristiano e chi non lo sia, ma se i cristiani erano solo coloro che seguivano Cristo, allora essere religioso non è sinonimo di cristiano. Scriveva Tertulliano nel secondo secolo nella sua Apologia del Cristianesimo, ma si obietterà che anche fra i nostri qualcuno ha potuto allontanarsi dalle regole della disciplina. Cessa però di essere da noi considerato cristiano. definirsi cristiano, per i primi credenti in Cristo, era una cosa seria. Per farvi comprendere l'importanza d'avere le idee chiare sul sostantivo cristiano, leggo una notizia dal titolo «Più cristiani nel terzo millennio», trovata su un periodico evangelico di giugno 1999. La popolazione cristiana raggiungerà nel 2000 quota 2 miliardi. I cattolici romani costituiscono il gruppo più vasto dei cristiani con più di 1 miliardo di fedeli, seguito principalmente dai protestanti con 321 milioni. Le chiese ortodosse contano 222 milioni di persone. La religione islamica è la seconda al mondo con 1 miliardo e 190 milioni di persone, seguita dagli induisti, 774 milioni. Non religiosi o agnostici, 768 milioni. Buddisti, 359 milioni. Religioni tribali, 252 milioni. Atei, 151 milioni. Nuove religioni, 101 milioni. Sikh, 22,7 milioni. Ebrei, 14. Una descrizione del genere lascia senza fiato. Innanzitutto contrasta, fortemente, con ciò che disse Gesù. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Luca 18, 8. Più passa il tempo, e più diminuiranno i cristiani. Inoltre, è interessante notare l'opinione dell'articolista sulla fede delle persone. I cattolici romani e protestanti vengono definiti cristiani. Per i pentecostali e carismatici non vi è nessun appellativo. Gli ortodossi vengono definiti le chiese ortodosse. Gli anglicani sono definiti i gruppi anglicani. I musulmani vengono definiti la religione islamica. Per tutti gli altri non vi è alcuna valutazione. Perché definire la fede dei musulmani la religione islamica e i cattolici definirli cristiani? Perché definire gli ortodossi le chiese ortodosse mentre gli anglicani sono definiti i gruppi anglicani? Se si parla di religione islamica, perché non parlare della religione cattolica o ortodossa? Se si parla di chiese ortodosse, perché non parlare delle chiese cattoliche? Se si parla di gruppi anglicani, perché non definire le varie correnti cattoliche e i gruppi cattolici? Dietro ad ogni definizione, non vi sono forse dei preconcetti? Sì, vi sono i preconcetti e sono denunciati dai diversi modi usati per definire i vari credenti delle tante religioni. Si parla di religione islamica, perché l'Islam è una religione. Se l'Islam è una religione, come mai il cattolicesimo romano viene definito Chiesa Cattolica Romana? Cosa è che fa religione l'Islam? E invece Chiesa, il cattolicesimo? Perché la fede del cattolicesimo romano ha un fondamento cristiano, ma avere un fondamento cristiano non fa una Chiesa? Forse i cattolici sono Chiesa. Perché sono battezzati? Ma il battesimo non ha mai fatto diventare cristiano qualcuno? Perché gli anglicani sono gruppi, mentre gli ortodossi sono definiti chiese, non hanno forse gli anglicani una fede basata su Cristo? Il punto è questo. Cattolicesimo romano, fede ortodossa, l'Islam, l'anglicanesimo, protestantesimo, pentecostalismo, ebraismo, sono tutte religioni che non salvano assolutamente nessuno. E arbitrario, deviante e mancanza di rispetto nei confronti delle altre religioni, definire la religione cattolica romana, Chiesa Cattolica Romana, perché non tutti i cattolici sono cristiani. Sono i singoli cristiani a formare una Chiesa, non è la Chiesa a trasformare le persone in cristiani. Quando abbiamo compreso chi siano i cristiani, abbiamo di conseguenza afferrato dove sia la Chiesa. Con chi allora dobbiamo avere comunione in questo periodo di ecumenismo? Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, 1 Corinzi 1. Un figlio di Dio ha comunione con la propria Chiesa e con tutti coloro che invocano Gesù come Signore, Se Gesù è il Signore, l'importante è credere, seguire, servire Lui, non la religione cattolica, protestante o ortodossa. Quando si diventa cristiani, non ci si libera da ogni forma d'autorità, ma si passerà dall'autorità degli uomini a quella della parola di Cristo. Diventare figli di Dio non significa anarchia, ma cambiare autorità. La cena del Signore. Coloro che si definiscono cristiani ubbidiscono ai comandamenti di Gesù Cristo. Gesù ha istituito solo due sacramenti, il battesimo e il ricordo della sua morte, definita dalla Scrittura la cena del Signore. I primi cristiani, pur essendo zelanti nell'osservare queste due prescrizioni, non sempre, lo facevano nel modo giusto, specialmente per quello che riguardava la cena del Signore. Proprio per questo, Paolo, nella prima lettera scritta ai cristiani di Corinto, dà degli ordini precisi. Nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio ma per il peggio. Poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché, al pasto comune, ciascuno prende prima la propria cena. E mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò. 1 Corinzi 11. Notiamo subito che Paolo non usa l'espressione Santa Cena, che è così comune nell'ambito di certi ambienti protestanti. E è vero che questa osservazione può essere discutibile perché anche la parola Trinità non si trova nella Bibbia, ma in questo caso le cose sono diverse. Paolo, riferendosi a ciò che Gesù ha istituito nella notte in cui fu tradito, l'ha chiamata cena del Signore. Nessun aggettivo davanti. Perché allora prendere il vino, come rammemorazione della morte di Gesù, viene chiamato Santa Cena? La spiegazione è presto detta. Noi viviamo in una società intrisa della cultura cattolica romana, dove si usano espressioni fuori luogo, come il cattolicesimo chiama erroneamente chiesa, il luogo di culto, così definisce Santa Messa, il rito che comprenderebbe l'ultima cena di Gesù. Per un cattolico, definire santa la Messa non è certamente una novità, perché nel suo ambito quasi ogni cosa è santa: Santo Rosario, festività santa, i santi Pietro e Paolo, il Papa è chiamato Santo Padre. Gli evangelici, il cui vanto consiste nel non conformarsi al mondo, hanno trasferito l'espressione Santa Messa alla cena del Signore, chiamandola Santa Cena. Così ne deriva che spesso io senta commenti del genere: la differenza tra cattolici e protestanti è minima. Noi abbiamo la Santa Messa, voi avete la Santa Cena, Un cattolico che diventa evangelico, quindi, non deve subire un grosso shock. Il pane è più che mai doveroso, quindi, usare le parole appropriate. La cena del Signore non è più santa della predicazione, dei canti e delle preghiere. Per coerenza, se chiamiamo la rammemorazione della morte di Gesù la Santa Cena, dovremmo chiamare il messaggio la Santa Predicazione, chi parla, il Santo Predicatore, il pane e il vino, i santi simboli. O definiamo tutto santo, o diversamente, non ha senso chiamare solo la rammemorazione della morte di Cristo la Santa Cena. Se poi, con l'espressione Santa Cena, vogliamo riferirci ad un sacramento inteso in senso cattolico romano, allora siamo completamente fuori strada. Senza rendersene conto, i figli di Dio hanno fatto diventare santa la rammemorazione del Signore. Vi sono dei figli di Dio che, a volte, si astengono dal pane e vino per ragioni di coscienza. Per quanto possa aver compreso, una delle ragioni per cui alcuni figli di Dio non partecipano alla cena del Signore è perché sono arrabbiati con qualcuno o perché non si sentono degni. Una cosa va detta subito: nessuno di noi sarà mai degno di accostarsi al pane e al vino. Tutti siamo peccatori e mancanti e questo sempre, per cui se aspettassimo di essere degni davanti a Dio, dovremmo aspettare fino alla morte. Paolo invitava i Corinzi ad esaminarsi, perché si rendessero conto che stavano ricordando la morte del loro Salvatore. Prende il pane e il vino indegnamente, colui che non considera ciò che sta facendo, non colui che è arrabbiato o non si sente degno. Se dovessimo applicare il principio che alcuni cristiani seguono in relazione alla cena del Signore anche a tutte le altre cose, nel campo di Dio il risultato sarebbe un'astinenza completa. Chi non prega, anche se non si sente di farlo o è arrabbiato, non è forse questo il momento più adatto per pregare? Chi non continua a predicare, a testimoniare, a insegnare ai bambini, a distribuire la cena del Signore, anche se è arrabbiato o non se la sente? Certo, non dobbiamo ridurre la cena del Signore ad un incontro formale come facevano i Corinzi. Né dobbiamo accostarci ai simboli solo per ubbidire ad un ordine. Ma non dobbiamo neppure far diventare la cena del Signore più santa di quello che essa sia. La cena del Signore è santa perché ci ricorda la morte e la resurrezione di Cristo. La cena del Signore è del Signore, perché l'invito di prendere il pane e il vino è suo. Tutti i cristiani sono invitati a prendere il pane e il vino. Chi se ne astiene perde delle benedizioni. I primi cristiani prendevano la cena del Signore in modo letterale. Si riunivano verso sera, da questo deriva il termine cena, e consumavano letteralmente un pasto. In confronto ai primi cristiani, noi dovremmo chiamare la nostra rammemorazione della morte del Signore l'aperitivo mattutino del Signore. Non farebbe male ai figli di Dio uscire dagli schemi prendendo, di tanto in tanto, il pane e il vino dopo un pasto. Non farebbe neppure male ricordare più volte nello stesso giorno la morte di Gesù con il pane e il vino. Ci è stato un periodo in cui prendevo il pane e il vino 3 volte al giorno, il mattino con la chiesa alla quale appartengo, il pomeriggio con una coppia di sposi impossibilitati a frequentare e la sera con una famiglia che abitava molto lontano dall'assemblea. Qualcuno penserà che una simile abitudine spogli di solennità la rammemorazione di Cristo, ma nessuno pensa che pregare spesso o leggere tutti i giorni la parola di Dio sia un pericolo per la serietà dell'azione che si sta compiendo. Comprendendone il valore, la cena del Signore sarà per noi non una santa cena, ma una cena santa, cioè appartata benedetta. In effetti, tramite il pane e il vino, i figli di Dio ricordano che la morte di Cristo li abbia resi degni di accedere alla deità senza un intermediario. Per comprendere questa grande benedizione, è necessario ricordare come si svolgesse il culto nell'ambito della religione ebraica. Religione, è bene ricordarlo, istituita da Dio stesso. L'Eterno Dio aveva stabilito che nessuna persona potesse accostarsi a lui senza l'intermediazione di un sacerdote. Con la venuta di Gesù Cristo, Dio ha voluto indicarci quale vero e unico sacerdote, suo figlio Gesù. Questa verità viene messa in risalto nella lettera agli Ebrei, dove leggiamo: «Inoltre quelli erano fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare, ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi, infatti, occorreva un tale sommo sacerdote, che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse se stesso. La legge infatti costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, che viene dopo la legge, costituisce il figlio reso perfetto in eterno. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario del vero tabernacolo, che ha eretto il Signore e non un uomo, Ebrei 7:23 a 8:2. Proprio perché un credente non ha bisogno di un sacerdote per accostarsi a Dio, in quanto il suo unico e sommo sacerdote è Gesù Cristo. Prendendo i simboli del pane e del vino, egli ricorda che chi crede in Cristo è stato giustificato una volta e per sempre. Sempre l'autore della lettera agli Ebrei enfatizza sulla rivoluzione che è avvenuta per il culto. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti», aggiunge: «e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove ci è il perdono di queste cose, non ci è più offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura, Ebrei 10:14-22. È possibile chiedere perdono a Cristo se chi crede è già stato giustificato? È possibile offrire qualcosa per i peccati se Dio ha già perdonato ogni peccato? Il culto a Dio non può essere che la semplice espressione di lode e di ringraziamento, di cui i simboli sono solo i mezzi e non gli elementi per i quali avvenga, secondo il cattolicesimo, la transustanziazione, vale a dire la trasformazione degli elementi nel vero corpo e nel vero sangue di Gesù. Come abbiamo considerato, la cena del Signore ci ricorda la morte di Gesù, ma essa annunzia altre verità importanti per un figlio di Dio. La cena del Signore annuncia che Gesù Cristo dovrà tornare dai cieli per rapire la Chiesa, ricorda ad ogni figlio di Dio che egli sia legato da un patto con Cristo. L'Apostolo Paolo si espresse in questo modo: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. 2 Corinzi 5:14-15. Ogni volta che un figlio di Dio ricorda la morte di Cristo, mediante i simboli del pane e del vino, egli ricorda pure che la vita che gli rimane da vivere appartenga al suo Salvatore, a Gesù Cristo. Chiamiamo quindi con il nome giusto il radunarsi dei figli di Dio per ricordare la morte di Gesù senza andare oltre a ciò che sia scritto. La cena del Signore rimane santa per il suo valore spirituale. Ma, definendo la Santa Cena, si espone il ricordo della morte di Cristo ad un rito che ha più del pagano che del cristiano. Queste riflessioni hanno lo scopo di invitare ogni figlio di Dio ad usare i termini Chiesa cristiano e Cena del Signore nel modo giusto. Le parole hanno un loro senso preciso, noi non dobbiamo distorcerlo. Usiamo questi termini, sfruttati anche, e spesso impropriamente da molti altri, ma usiamoli correttamente, per non sconfessare quello che, invece, è nella nostra intenzione professare. Giugno 2003. Ellero.